Perdonami se ti amo ancora, se oggi qui da te torna a mani giunte, da quando è nato il mondo non esiste, tu lo sai, la donna che può dir di non aver sbagliato mai. Che ti amo ancora. Credevo di lasciarti e di non ritornare mai, ed oggi vengo a piangere davanti agli occhi tuoi. Cammino per le strade e sei nella mia mente. Gli uomini che vedo sono solamente ombre. Da quando ho perso te io non niente, niente. Perdonami. Credevo di lasciarti e di non ritornare mai, ed oggi vengo a piangere